Io sono molto contenta di essere qui, sono contenta di poter condividere la parola che credo fermamente Dio abbia ispirato al mio cuore per questa mattina, per ognuno di noi che abbiamo scelto di essere qui, ma anche per chi ci sta ascoltando da casa. La mia preghiera è proprio che quello che andremo a dire possa essere un seme che poi possa germogliare e portare frutto nella nostra vita. Amen, nella nostra famiglia, nella nostra casa e in tutte le persone che ci circondano. Chi crede che la preghiera sia un mezzo potente? Amen. Chi può testimoniare che Dio ha ascoltato una preghiera che noi abbiamo rivolto a Lui e poi ha operato andando anche oltre? C'è qualcuno che ha scritto: chi si inginocchia davanti a Dio può stare in piedi davanti a qualunque cosa. Quanto è vero? E sono convinta che ognuno di noi abbia oggi una storia, una testimonianza che può confermare questo. Che quando stiamo in ginocchio davanti a Gesù, che quando preghiamo con fede, con coraggio, poi Lui ci rende forti, abili e capaci di stare in piedi davanti a qualunque circostanza. Amen? E io oggi voglio predicare proprio sulla bellezza, sull'importanza, ma anche sull'urgenza di vivere una vita di preghiera audace, di fare, di rivolgere delle preghiere al nostro Dio che è grande e che è potente, che siano a sua misura piuttosto che a misura della nostra circostanza, a misura dei nostri dubbi o a misura delle nostre paure. Oggi voglio incoraggiare me stessa per prima e poi ognuno di noi a cambiare, a approfondire, ad intensificare le nostre preghiere, ad avere il coraggio, l'audacia di rivolgere a Dio delle preghiere grandi tanto quanto è Lui. Amen? E la Bibbia è piena zeppa di uomini e donne che hanno cambiato la storia grazie a una preghiera coraggiosa, grazie a una preghiera audace. Ci sono uomini che hanno visto mari aprirsi, mura crollare, uomini resuscitare, grazie a delle preghiere fatte con fede, fatte con audacia e coraggio. Non erano persone perfette, erano persone come me e come te, ma che credevano fortemente che Dio è fedele alle sue promesse, che Dio è fedele alla sua parola e che Dio è potente da operare ieri, oggi e lo sarà per sempre. Amen. Ci ricordiamo Giosuè. Ce lo ricordiamo Giosuè. Israele era in battaglia contro gli Amorrei. Il popolo stava vincendo, il popolo di Israele stava vincendo, però il sole stava tramontando e Giosuè sapeva che una volta fattasi sera, il popolo nemico si sarebbe potuto riorganizzare e avrebbe magari potuto avere la meglio. E quindi che fa? Una preghiera molto coraggiosa. Sole, fermati! Luna, fermati! E la scrittura dice, in Giosuè 10, dice: il sole si fermò e la luna rimase al suo posto finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici. Una preghiera audace, coraggiosa, che Dio ha ascoltato e ha fermato l'intero universo. Di conseguenza, una preghiera coraggiosa. Elia ce lo ricordiamo, ne abbiamo parlato poche settimane fa quando c'era l'ospite. Elia era da solo sul Monte Carmelo contro 450 profeti di Baal. E per dimostrare che Dio era l'unico Dio degno di lode e di adorazione, cosa fa? Elia prepara l'altare, dispone la legna, mette sopra il sacrificio, mette sopra dell'acqua affinché tutto fosse fradicio e poi prega una volta. Puoi dire com'è una volta? Rispondimi, Signore, rispondimi. affinché questo popolo riconosca che tu, oh Signore, sei Dio e che tu sei colui che converte il loro cuore. Una preghiera coraggiosa e il fuoco scende. Il fuoco scende dal cielo e brucia tutto quello che c'era da bruciare, consuma il sacrificio, la legna, le pietre, tutto il popolo cade di faccia a terra e che cosa succede? Riconosce che Dio è veramente Dio, che Dio era il Signore. Ma Elia continua e dopo aver dimostrato con questo miracolo conseguente a una preghiera coraggiosa che Dio è vivo, Elia prega di nuovo. Questa volta prega per la pioggia, prima per il fuoco, cose semplici, preghiere molto semplici. Prima per il fuoco, ora per la pioggia. Mette la testa fra le ginocchia e intercede. Finché è lontano, la sappiamo la storia, a un certo punto appare una nuvola grande quanto una mano. E poco dopo il cielo si oscura e cade una pioggia abbondante. Notiamo che nel primo caso Elia prega una volta e il fuoco scende. Nel secondo caso Elia intercede. Continua, prega una volta, prega due volte e il cielo è ancora molto terso e quindi poi manda da capo a controllare, vede una nuvola e prega, intercede, ripete fino a quando appare una nuvola grande quanto una piccola mano. Quello che a me parla è che nell'attesa la preghiera di Elia non ha perso di audacia, non ha perso di coraggio. Elia non è che a un certo punto ha detto, ma vabbè dai, forse adesso sto chiedendo troppo, su via, ho chiesto prima il fuoco, adesso chiedo anche la pioggia, coraggio, forse devo fare un attimino un passo indietro, no, Elia continua, intercede con audacia, con coraggio, con fede e io mi chiedo, quanto tempo ci mettiamo alle volte finché le nostre preghiere perdono un po' di audacia? Magari partiamo in quarta, Signore, tu opererai, fare questo e fare quello, tu sei grande, e poi nell'attesa passa un giorno, passa una settimana, passa un anno, passano anni e la nostra preghiera si rimpicciolisce, si infievolisce, perde di coraggio, perde di audacia. Anna nel tempio, Anna non ha pregato per la pioggia. Anna non ha pregato per il fuoco, Anna non ha pregato per un mare che si aprisse, Anna ha pregato per un figlio. La vediamo nel tempio, sola, stanca, scoraggiata, sofferente. Ma i suoi sentimenti non hanno permesso alla sua fede di affievolirsi. I suoi sentimenti, quello scoraggiamento, quella delusione, non hanno permesso ad Anna di fare un passo indietro e di arrendersi e di accettare la situazione come era. No, Anna la vediamo lì che in lacrime prega e dice, Signore, se mi dai un figlio, se mi dai un figlio maschio, aveva le idee molto chiare, se mi dai un figlio maschio, io lo consacrerò a te. Tutte queste storie hanno un comune denominatore e lo possiamo riconoscere, lo possiamo ascoltare. Sono accomunate dal fatto che queste persone hanno avuto il coraggio di chiedere l'impossibile. Hanno avuto il coraggio di professare, di alzare una preghiera a Dio che era coraggiosa, che era audace. E io oggi voglio dire a me e a te che le preghiere audaci, coraggiose, onorano Dio. E che Dio risponde alle preghiere audaci. Dio risponde alle preghiere piene di fede, di fiducia nella sua potenza e nella sua sovranità. Dio non vuole che preghiamo per preghiamo per il minimo indispensabile. Dio non vuole che rimpiccioliamo le nostre preghiere perché la situazione è troppo difficile. Dio non vuole che chiediamo solo le cose piccole perché per le cose grandi non ce l'abbiamo quella fede. O pensiamo che Dio non può operare, non può fare quello che ha fatto milioni di anni fa, non lo può fare oggi perché i tempi sono cambiati. Dio non è onorato da questo tipo di preghiere, ma a Dio piace. A Dio piace quando preghiamo che il mare si apra, che la situazione si risolva. A Dio piace quando preghiamo per la moltiplicazione delle nostre risorse, come ha fatto Eliseo per l'olio, che si è moltiplicato. A Dio piace quando preghiamo per guarigione. A Lui piace quando chiediamo che Lui intervenga nei nostri corpi e nei corpi di chi c'è attorno, proprio come ha fatto Pietro in Atti 3. Ce lo ricordiamo. Stavano salendo sul monte, stavano andando al Tempio per pregare. E lì, vicino alla porta bella, c'era quest'uomo, zoppo, dalla nascita, che chiedeva l'elemosina. E Pietro si è fermato, ha volto lo sguardo su questo uomo e non ha risposto alla necessità dell'uomo, a quello che credeva fosse la sua necessità. Non gli ha dato oro, argento, non gli ha dato soldi, ma ha detto: io oro e argento non ce l'ho, ma nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E quello zoppo si è alzato e ha camminato. Dio è onorato da questo tipo di preghiera. Dio è onorato da questo tipo di fede. A Lui piace. Quella di Pietro non è stata una preghiera timida, ma è stata una dichiarazione audace. Pietro non ha detto: Signore, se vuoi, se ti vuoi scomodare, guarisci. O non ha detto: Signore, provvedi per lui. O non ha dato allo zoppo dei consigli per vivere in maniera più piacevole nella sua condizione. No, Pietro conosceva la potenza di Dio che viveva in lui e in base a quella potenza ha pregato, in base a quella potenza ha chiesto un miracolo e quel miracolo è avvenuto. Io mi domando, quando è che le nostre preghiere si sono ridotte ad essere delle richieste moderate, delle richieste che abbiano comunque un senso di logica, o quando si sono trasformate in dei consigli motivazionali. Siamo diventati tanto bravi a dare dei consigli, a dispensare strategie. E io ogni volta quando parlo con qualcuno e c'è bisogno di preghiera e sto per dare il mio consiglio del giorno, mi devo fermare, devo dire: Noemi, tu non sei su questa terra per dare dei consigli, tu sei su questa terra per pregare nel nome di Gesù. E io credo, Chiesa, lo sento fortemente nel mio cuore, che noi dobbiamo tornare ad essere una Chiesa che prega preghiere audaci, che fa preghiere coraggiose, che non ha paura che il Signore poi non risponde, che non si fa frenare da quello che magari non è andato bene, ma che a prescindere continua, perché la potenza di Dio che ha resuscitato Gesù vive in noi, e la preghiera è un modo attraverso il quale noi possiamo esercitare la potenza nel nome di Gesù. Amen? Fare preghiere audaci, fare preghiere coraggiose, significa profetizzare la volontà di Dio sulla nostra vita e sulla vita di chi ci circonda. Le nostre preghiere audaci sono degli strumenti profetici, sono degli strumenti che ci permettono di parlare vita, di parlare miracoli, di parlare cambiamento, di parlare e di verbalizzare l'intervento potente di Gesù nelle nostre situazioni. Pregare con fede significa mettere in pratica quello che c'è scritto in Ebrei 11 al versetto 1. Che cosa c'è scritto? La fede è la certezza di cose che si sperano. È la dimostrazione di realtà che non si vedono. Quando io faccio delle preghiere audaci, significa che sto confessando le cose che ancora non vedo, come se fossero già reali, come se fossero già davanti a me. Elia ha pregato per quella nuvola grande quanto una mano, ma prima ancora di vederla con i suoi occhi, lui la vedeva con il suo spirito, lui la vedeva con il suo cuore, e ha profetizzato, e ha pregato, e ha continuato ad intercedere, e fin quando una realtà spirituale, una rivelazione intangibile è diventata realtà. Questa è la potenza delle nostre preghiere. Questo è quello che noi possiamo e dobbiamo vivere ogni giorno quando ci approcciamo a Gesù. E allora quando preghiamo per la nostra famiglia, come suona la nostra preghiera? Come forse un elenco di cose che Gesù deve fare? Che Gesù deve provvedere? O ancora peggio, come forse un elenco di cose di cui ci lamentiamo? Cambiamo. Cambiamo la nostra preghiera. Quando preghiamo per la nostra famiglia, quando preghiamo per i nostri figli, io quando prego per Jacopo mi trasformo, veramente mi trasformo, perché voglio applicare questo per la vita di mio figlio. E allora non prego soltanto perché lui possa stare bene e possa un giorno avere un lavoro. No, io prego e dico: Signore, grazie che Jacopo sarà un tuo servitore. Grazie perché la sua bocca predicherà e confesserà la tua verità. Grazie perché in un mondo dove non si capisce più niente, lui sarà la luce. Non lo è ancora. Ha detto la sua prima parolina, prima no, una delle prime paroline ha detto Alexa. È ancora lontano dal predicare le meraviglie del Signore. Non lo vedo, non è tangibile, ma nel mio cuore io già lo vedo, già lo credo. E faccio preghiere coraggiose e prego che lui possa veramente cambiare il mondo, possa veramente cambiare il mondo politico, possa veramente cambiare la cerchia dei suoi amici. Capite? Questo è pregare in modo coraggioso. Questo è intercedere. Questo significa profetizzare, parlare vita su una situazione che al momento è terribile, ma che so che Dio ha una volontà diversa per quella situazione. E allora io professo e confesso e profetizzo la sua verità. Non descrivo la realtà che vedo, che Gesù già la vede, la conosce. Quando prego per le nostre finanze, Signore, tu sei colui che ha provveduto la manna dal cielo. Tu ti prendi cura di me. Signore, tu sei colui che si prende cura dei gigli e dei passerotti. Ti prendi cura della mia famiglia. E io prego per uno stipendio che sia uno stipendio buono, che sia uno stipendio ricco, che ci dia la possibilità di vivere ma anche di dare, di essere generosi. Io prego per degli straordinari, io prego per dei progetti di insegnamento che non ho mai avuto prima d'ora, li prego che si possano presentare nella mia vita oggi. Mi risponde sempre il Signore: no, ma questo aiuta me a vivere insieme a Lui, a usare bene la mia bocca, a parlare vita piuttosto che morte sulle persone e sulle circostanze che mi circondano. Capite, Chiesa? Quanti pensano che è buono che cresciamo in questo? Quanti si sentono chiamati da tutto questo? Io sì. Qualcuno ha detto, un teologo ha detto, La preghiera del giusto è come un seme nel futuro. Oggi lo semini, domani germoglia nella realtà. Ogni preghiera fatta in fede, ogni preghiera coraggiosa, in accordo con la volontà di Dio, è una profezia in attesa di compimento. Possiamo dire amen a questo? Ora, fare le preghiere coraggiose, fare questo tipo di preghiera, non è un chiudere gli occhi e dire va sempre tutto bene, siamo sempre felici, il Signore sempre provvede, non ho mai difficoltà, non sono mai nel bisogno, non mi sento mai triste. Perché? Perché devo profetizzare, devo parlare vita. No. Davide, ce lo ricordiamo? È stato l'autore di alcuni dei salmi più deprimenti, per non parlare poi di Salomone, tutto il libro dell'Ecclesiaste. Insomma, vabbè, noi le sappiamo queste cose, lo sappiamo che possiamo essere sinceri con il Signore. Lo sappiamo che non lo dobbiamo prendere in giro e tantomeno dobbiamo prenderci in giro. Pregare profeticamente non significa non accettare la difficoltà, ma significa scegliere di dare autorità su quella difficoltà a Dio piuttosto che al problema stesso. Significa dire: Signore, io non lo so perché questa tragedia è accaduta. Signore, io sto male, sto soffrendo, sono nel bisogno. Quindi tu non lo nascondi, lo riconosci. Non è un essere fanatici e parlare a vuoto e pregare al vuoto. Lo riconosci e lo confessi, ma non ti fermi lì. Perché poi continui dicendo, ma io so che tu ci sei. Io so che quand'anque camminassi nella valle della morte, tu sei con me. Sto soffrendo, ma io so che tu sei la mia consolazione. Sono nel bisogno, ma io so che tu sei il mio aiuto, che tu sei il mio bastone. Sto combattendo con il peccato, ma io so che tu sei la mia verga e mi puoi sollevare e mi puoi correggere e mi puoi istruire. Capite, Chiesa? Capite quanto può cambiare la nostra vita di preghiera e la nostra vita in generale se solo afferriamo questo e se questo diventa il nostro stile di preghiera quotidiano. C'è un altro teologo che ha scritto questo. Dio ha legato la sua onnipotenza alla preghiera dei suoi figli. Ciò che deve ancora avvenire dipende da ciò che la Chiesa è disposta a chiedere. E allora io mi fermo e mi chiedo, perché cosa sto pregando? Come sto pregando? Come sto pregando per la mia famiglia? Come sto pregando per la mia Chiesa? Per il mio ministero? Per il mio gruppo in casa? Come sto pregando? Quando è stata? Noemi, quando è stata l'ultima volta che hai pregato, Signore, io ti ringrazio perché un giorno questo locale non sarà grande abbastanza? Quando è stata l'ultima volta che hai confessato questa verità sulla tua chiesa? Che le sedie non saranno abbastanza, che un incontro non sarà abbastanza, che la città di Modugno verrà qui e si farà la fila lunga fino alla posta per entrare nella chiesa? Quando è stata l'ultima volta che abbiamo pregato per il nostro gruppo familiare in questi termini? Signore, ogni singolo membro del mio gruppo familiare appartiene a te e tu sei colui che provvede per loro. E tu sei il loro aiuto, e tu sei la loro bussola. Bussola, quando è stata l'ultima volta che abbiamo riempito la nostra anima, la nostra stanza di queste parole di vita? Quando è stato? Ritorniamo, Chiesa. Ritorniamo a pregare in questa maniera. Perché? Perché onora Dio e perché fa bene a noi. Amen? Il 28 agosto, lo scorso agosto, quest'anno, il 28 agosto, ho ricevuto un'email che mi ha molto, molto destabilizzata. Io sono ritornata a studiare. Lo so, ancora, lo so. E, mi sono iscritta all'università per prendere per arricchire il mio curriculum con un'altra laurea e mi sono iscritta all'università una settimana prima di sapere che ero incinta di Jacopo. Quindi potete immaginare, ho vissuto tutti questi 2 anni di studi. All'inizio incinta, ho dato esami con il pancione, poi con Jacopo che non dormiva la notte, però ce l'ho fatta. Sono arrivata alla fine, al traguardo, e poi mi arriva questa email il 28 agosto e mi dice: signora Viale, c'è stato un errore, il suo anno accademico non si conclude a novembre, ma si conclude a settembre. E questo voleva dire per me che non avrei potuto dare l'ultimo esame, l'ultimo, e non avrei potuto consegnare la tesi che era già pronta all'80%. O meglio, avrei potuto fare tutto questo pagando la retta dell'intero anno fuori corso. Io avevo fatto di tutto per non trovarmi in quella precisa situazione. E allora ho parlato con il segretario e ho detto: ci deve essere un errore, perché non è possibile che io devo pagare tutto questo per un errore altrui. Mi dispiace signora Viale, non c'è nulla da fare. Nulla da fare. Solo fare un bonifico. E io non lo accettavo questo. E ho cominciato ad arrabbiarmi. E ho cominciato ad agitarmi. Ho cominciato a scoraggiarmi. Leggo e dico, ok, leggo che l'unica cosa possibile da fare era scrivere al magnifico rettore. Dovevo scrivere una PEC e pagare 16 euro per mandarla questa PEC. E scrivere al magnifico rettore di fare qualcosa, di intervenire. Lo dico al segretario, il segretario mi dice: guarda, se vuoi fallo, ma non ti risponde, cioè, o se ti risponde ti dice quello che io ti ho appena detto, quindi non lo volevo fare. Poi mio padre, mio marito, prima di tutto, noi mi fallo, perché il Signore può operare, può fare un miracolo, Luciana mi ha tanto incoraggiato in questo. Va bene, scrivo l'email, mando l'istanza, e a me quella era la situazione perfetta per mettere in pratica tutto quello che io vi ho appena detto. Era proprio perfetta. Io dovevo lì confessare la verità di Dio. Dovevo lì confessare l'intervento e chiedere un miracolo. Dovevo dire: Gesù, tu mi hai accompagnato fino a questo punto. Tu mi accompagnerai fino alla fine. Gesù, ti prego, fa che il rettore, il magnifico rettore, mi possa rispondere. Signore, ti prego che questa istanza, nel nome tuo, sia accettata. L'ho fatto? No! Perché non l'ho fatto? Perché io sto predicando prima a me e poi a voi. Io questa cosa la devo imparare. Non l'ho fatto. E allora dicevo, così, alzando le spalle in completa rassegnazione, come il Signore vuole, ma non mi azzardavo a chiedere. Come il Signore vuole, Lui ha la sua volontà. Sai le frasi che siamo bravi a dire? Lui ha già preparato tutto. Forse devo imparare qualcosa. Qualcosa dovevo imparare. Ad avere fede. A fare delle richieste coraggiose. A essere audace nella mia preghiera. Ma non l'ho fatto. Perché? Sono l'unica che ha questo problema? Perché? Quando è che abbiamo smesso? Quando abbiamo smesso? Anzi, la domanda più importante è: perché abbiamo smesso? E io mi sono data 3 risposte. Le volete sapere? Orgoglio, delusione. È un combo che non va molto bene. Smettiamo di pregare con fede perché siamo rimasti feriti in un qualche modo da preghiere che non sono state esaudite. E orgogliosamente, non è che lo diciamo, però orgogliosamente scegliamo di non chiedere più. Scegliamo di chiedere il giusto necessario. Smettiamo di bramare il miracoloso, ci accontentiamo dell'ordinario purché che sia tranquillo. Il cuore deluso diventa un cuore più cauto, è vero? Diventa un cuore che non si azzarda più, perché ha sofferto. E la preghiera, invece di essere un atto di fiducia, diventa una difesa contro la delusione. Un'altra motivazione, e questa è proprio oltre la delusione e l'orgoglio, questa che vi sto per dire è proprio la mia, ed è l'idea distorta della sovranità di Dio. Cioè, è una teologia sbagliata. Noi riconosciamo che Dio è sovrano. Lo sappiamo che Lui ha una volontà precisa, buona, perfetta, accettabile. È vero? Lo sappiamo, Dio è sovrano, a Lui non sfugge nulla, e Lui ha in mano l'intero universo. Lui ha una conoscenza, è onnipotente, è onnisciente, ma ha una volontà, e io lo so, che spesso e volentieri la sua volontà non combacia con la mia. E allora perché pregare? Questo è il tranello che si innesca nella nostra mente. Dio è sovrano, Dio lo sa come deve fare. E allora mi arrendo alla sua volontà. Tuttavia, questa è una teologia sbagliata. Perché la Bibbia ci dimostra che la sovranità di Dio include l'uomo, include la nostra preghiera come mezzo per compiere la sua volontà. Lo dico meglio, anzi lo dico di nuovo, la sovranità di Dio non esclude l'uomo. Dio non dice, io lo so come devo fare, quindi o preghi o non preghi, io lo so come devo fare. Ma la sovranità di Dio, la sovranità di Dio che è fondata sul suo amore, perché Dio è amore, ci include. Include la mia e la tua preghiera e fa sì che quella preghiera diventi il mezzo attraverso il quale Lui opera. Voi pensate che Dio non avrebbe potuto liberare il popolo di Israele senza Mosè? Certo, eppure ha scelto di farlo attraverso l'intercessione di Mosè. Gesù non avrebbe potuto guarire quello zoppo vicino alla Porta Bella? Certo, ma ha scelto di farlo dopo la preghiera di Pietro. Gesù non avrebbe potuto guarire Naam? Sì, ma ha scelto di farlo dopo l'intercessione del profeta. Gesù può fare tutto, però vuole includerci, vuole avere una relazione con noi e vuole che noi ci fidiamo di Lui, e la nostra fiducia si traduce in preghiere coraggiose, in preghiere audaci. Tozer ha scritto: la sovranità di Dio non è una scusa per la nostra inattività, ma è la garanzia che le nostre preghiere non saranno vane. Dio è sovrano, sì, ma questo non ci deve portare a essere inattivi, a non applicare, non esercitare la nostra fede. Dio è sovrano, ed è proprio per questo che noi abbiamo la certezza che le nostre preghiere sono ascoltate. Il 29 agosto, ottobre, no, non siamo ancora ad ottobre, settembre Il 29 settembre apro l'email ed è il magnifico rettore. Il magnifico rettore che mi scrive: gentilissima Noemi, gentilissima signora Viale, in via del tutto eccezionale abbiamo scelto di accettare la sua istanza. Ciò vuol dire che mi laureo. Però questo è il punto. Io non ho pregato. Nonostante la mia incredulità, nonostante la mia fede fragile che si nascondeva dietro il Signore lo sa, mi arrendo a Lui, Dio ha operato. Dio ha fatto questo miracolo. Perché? Perché Lui è sovrano. Perché Lui è sovrano. Ma forse gli sarebbe piaciuto molto di più se sua figlia Noemi fosse andata da lui e avesse arreso la situazione a lui. Forse Dio ne sarebbe stato più compiaciuto. Non pensate? Dio ha operato lo stesso. Il magnifico rettore ha risposto. Perché? Perché mio padre, perché Dio è mio padre, è il mio padre buono e io sono sua figlia. Ma quanto sarebbe stato più bello se fossi andata da lui in quanto figlia e gli avessi arreso tutta la situazione, inclusa la mia frustrazione, il mio scoraggiamento, eccetera, eccetera. Quanto sarebbe stato più bello se fossi riuscita a credere, a chiedere l'impossibile, a chiedere coraggiosamente che quel miracolo succedesse. Oh, sarebbe stato molto più bello. E questo messaggio anche sarebbe stato molto più bello. Comunque io da questa esperienza due cose ho imparato. E con questo voglio concludere. Le volete sapere? La prima è questa. Che noi possiamo e dobbiamo chiedere che l'impossibile avvenga sempre e comunque. Perché se c'è scritto, e c'è scritto in Giacomo 4, al verso 2 c'è scritto: voi non avete perché non chiedete. Allora chiesa, io questo ho imparato, che se proprio non devo ricevere, io voglio non ricevere quello che ho chiesto, perché Dio ha qualcosa di meglio, perché Dio la pensa diversamente e non perché io non ho avuto il coraggio di chiederglielo e non perché io non ho avuto la fede, una fede abbastanza salda da potergli offrire la mia richiesta. Se proprio non devo ricevere, non ricevo perché non vuole, non perché io non ho chiesto. Mi spiego? Che è successo alla musica? L'unzione se n'è andato. No, scherzo. La più grande tragedia non sono le preghiere non esaudite, ma le preghiere che non sono mai state pronunciate. Perché la preghiera serve al nostro cuore. Io ho pregato per zia Milena. Mentre stavo macinando tutto questo, ho detto, ok, questo non è il magnifico rettore, questa è importante. Allora io voglio mettere in pratica, già da adesso, e ho pregato. E ho fatto preghiere coraggiose. Fino all'ultimo ho fatto preghiere coraggiose. La più grande tragedia non sono le preghiere che non sono state esaudite, ma quelle che non sono pronunciate. Io ho chiesto e ho fatto il mio dovere di figlia. Mi sono comportata come Gesù vuole. Ho chiesto, ho avuto fede. L'epilogo lo devo lasciare nelle mani di Gesù. Ma l'epilogo non deve mai condizionare la mia preghiera. Non deve mai condizionare la mia fede. E voglio che non sia così. La seconda cosa che io ho imparato è questa. Nel mio pregare mi devo ricordare che io sono una figlia. Una figlia di un padre buono che ascolta e che è onorato dalla mia fiducia. Quando io ero bambina e andavo da papà e gli facevo una qualsiasi richiesta, io non mi fermavo prima ad analizzare tutte quante le richieste che avevo fatto a papà fino a quel momento per poi capire statisticamente se papà mi avrebbe risposto sì o no. Io quando andavo da papà e chiedevo qualcosa, non mi ponevo il problema se papà mi avrebbe risposto sì o no. Non mi ponevo il problema se papà magari la pensava diversamente, sì o no. Io che cosa facevo? Da figlia, da bambina, andavo a papà e chiedevo. Poi papà decideva, sì, no, aspetta. Ma io da figlia andavo e chiedevo, con coraggio, a prescindere da tutto. Questo è il tipo di rapporto, il tipo di relazione che Gesù vuole con noi. Che noi andiamo dal Padre come figli e chiediamo. E poi la risposta la lasciamo a Lui. In fondo, Chiesa, non è quello che Gesù ha fatto. In Luca 22, Gesù, il figlio di Dio sulla terra, il figlio, lo vediamo nel Getsemani, a poche ore dalla sua morte, sofferente, impaurito, che fa una preghiera al Padre e dice: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. E noi ci focalizziamo molto spesso, perlomeno io fino a qualche giorno fa, mi sono focalizzata troppo spesso sulla seconda parte, ma non la mia, la tua volontà, che è meravigliosa. Ma ciò non toglie che Gesù è andato dal Padre e ha chiesto. E Gesù la volontà del Padre la conosceva molto bene perché era Dio. Gesù la risposta a quella domanda la sapeva. Gesù sapeva che Dio, Padre, non avrebbe mai potuto dire ok, perché l'aveva mandato per quell'esatto motivo, ma non l'ha fermato. Gesù è andato comunque, da figlio, è andato al Padre e ha detto: papà, se vuoi. Questo è quello che Gesù chiede a noi. Forse Gesù voleva lasciarci un modello. Forse voleva insegnarci, darci un esempio da replicare. Forse ci voleva dire, come ho fatto io, quando vai dal Padre, ricordati che sei figlia. Ricordati che sei figlio e che il Padre è un Padre buono. Ritorna, Chiesa, ritorniamo a fare delle preghiere audaci, a fare delle preghiere coraggiose, a fare delle preghiere a misura del nostro Dio, a pregare la nostra fede e non le nostre paure. E poi l'epilogo lo lasciamo nelle mani del Padre, ma comportiamoci da figli. Amen? Amen. Vogliamo alzarci? E se tu ti sei sentito toccato, chiamato in causa da queste parole, proprio come mi sento io tuttora, allora perché non alzi le tue mani al cielo? In segno proprio di arresa. E vogliamo pregare insieme, vogliamo oggi prendere la decisione di ritornare ad essere quei bambini, quei figli che si approcciano al Padre con fiducia, con piena fiducia, per ricevere quella misericordia che Gesù ha per noi. Vogliamo scegliere questa mattina di ritornare ad avere coraggio, di non farci più condizionare da quelle che sono state le delusioni, le preghiere inattese, i no ricevuti, le aspetta che stiamo ancora subendo, tra virgolette. Ma vogliamo comunque andare con coraggio, con audacia al Padre, pregare e chiedere cose impossibili per la nostra famiglia, per i nostri figli, per il nostro lavoro, per la nostra chiesa. Chiedere che la volontà di Dio miracolosamente possa essere vista dai nostri occhi, possa essere tangibile, che le nostre preghiere possano essere dei semi di parole di vita nella nostra vita, in chi ci circonda, affinché poi Dio possa operare e fare quello che solo Lui può fare. Qual è la tua situazione impossibile? Quali sono le mura che ti sono davanti, che devono crollare? Qual è quel mare che si deve aprire? Qual è quell'uomo morto che deve resuscitare? Che cos'è? Dove puoi pregare, fare delle preghiere, delle richieste audaci? Fallo, fallo. Gesù le vuole ascoltare. Le preghiere audaci onorano Dio e Dio risponde alle preghiere coraggiose. Quindi mentre cantiamo questo canto, io ti prego, Chiesa, non perdere, non far sfuggire questa rivelazione, ti prego. Canta o prega, ma fa sì che il tuo cuore possa iniziare a sperare e a chiedere per l'impossibile, nelle tue circostanze, per la Chiesa, per il tuo gruppo, per il servizio, per la tua famiglia, per tutto quello che necessita un miracolo. Oggi tu puoi incominciare a confessare verità, a confessare vita, a pregare coraggiosamente e ad attendere che l'opera di Dio possa essere fatta. Amen. Amen.